Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Sette minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia. I temi di questa giornata economico-finanziaria: e la Svizzera va giù, se non ricordo male il ritornello di una vecchia canzone. È andata giù parecchio oggi la Svizzera, intesa come borsa, ne parleremo ampiamente, e ha trascinato per alcune ore anche le altre borse europee, che però, lo dico subito, hanno tutto recuperato ampiamente e adesso guadagnano intorno al 2%, il 2,42% Milano, il 2,33% Parigi, il 2% Francoforte, Londra più 1,40%, l'America meno 0,25% in questo momento. Chi continua a essere debolissimo, ma è una buona notizia, è l'euro sul dollaro, è sceso a quota 1,15, si mantiene 1,15,82 e praticamente siamo ai minimi per quello che riguarda l'euro da 11 anni a questa parte. È arrivato fino a quota 1,1575, non lo vedeva a livello di 1,1575 per un dollaro dal novembre del 2003. A chi ci chiede, ma insomma, attenzione, l'euro al suo debutto partì sulla parità, ma poi ci furono anche dei mesi interi in cui valeva meno di un dollaro, a 0,90, 0,91, se non ricordo male, se posso andare a controllare, il minimo fu a 0,86, 0,88. Ora nessuno dice che si debba arrivare a quei livelli, però 1,15 a nostro avviso un rapporto di parità 1,1 già sarebbe, rispecchierebbe meglio i pesi economici dell'area euro rispetto agli Stati Uniti, e quindi c'è ancora un 15% di calo possibile. Detto questo, la Svizzera che cosa ha fatto? Ha deciso di cancellare il tetto fissato al cambio del franco contro l'euro, tetto che fu fissato, se ricorderete, nel momento in cui partì l'attacco all'euro, l'attacco speculativo, quindi da settembre del 2011. Cosa capitò? Mentre lo spread italiano continuava a salire fino ad arrivare a oltre 500 punti, e valeva anche per lo spread spagnolo, quello greco, molti utilizzavano il franco svizzero come valuta rifugio. E allora a un certo momento la Svizzera decise che non avrebbe consentito al franco di andare oltre quota 1,2, perché sennò ne avrebbe avuto una penalità molto forte la Svizzera stessa come esportazioni. Con un franco troppo forte avrebbe avuto problemi ad esportare. Allora, dopo la decisione di oggi di eliminare il tetto di 1,2, il franco ha guadagnato fino al 16% nei confronti dell'euro, arrivando appunto a crescere adesso un po' meno, ma fino al 16%, e in contemporanea la borsa di Zurigo ha accusato un crollo vero e proprio di quasi il 12%. Nel frattempo la Banca Centrale Svizzera ha anche deciso di tagliare il tasso sui depositi, che da meno 0,25% va a meno 0,75%. Anche in questo caso i tassi negativi, vuol dire che se tu depositi soldi in Svizzera in questo momento, dopo un anno hai lo 0,75% in meno rispetto a quanto hai depositato. La misura era stata introdotta lo scorso 18 dicembre per arginare di nuovo l'apprezzamento del franco, disincentivando l'afflusso dei capitali. E quindi adesso la situazione viene modificata, perché ci si attende comunque il quantitative easing della banca centrale. Il timore di Berna in sostanza era che un franco troppo forte spingesse fuori dai mercati le imprese svizzere. Però mantenere il tetto di un massimo 1,2 euro per un franco è costato parecchio la Svizzera, perché voleva dire che ogni volta che la valuta svizzera si apprezzava troppo, la Svizzera cosa faceva? Andava a vendere franchi e comprare euro. È costato sostanzialmente, la stima esatta non si ha, ma stiamo parlando di decine di miliardi di euro, e ha suscitato anche opposizioni poi sfociate in quel referendum, lo ricorderete, sull'euro poi fallito, in cui si chiedeva sostanzialmente di convertire le riserve di valuta estera in in oro. Parleremo anche perché sono molto preoccupati i grandi colossi svizzeri, a partire dalle banche. UBS dice la mossa avrà un grande impatto negativo sull'economia della Svizzera. Il numero uno di Swatch dice attenzione, la decisione della banca centrale svizzera è uno tsunami per il paese. Il titolo del gruppo che produce orologi ha perso oggi il 15% alla borsa di Zurigo. Di questo parleremo, dicevo, riprenderemo anche il nostro viaggio che abbiamo percorso lungo tutti gli ultimi mesi del 2014 nei vari settori produttivi di questo paese. Oggi la volta di chi rappresenta l'elettronica, l'elettrotecnica, e anche qui assistiamo a dei numeri molto forti sull'export, e ormai è un settore che per più del 50% vive grazie alle esportazioni. E come sempre anche di nuovo il tema del petrolio, oggi affrontato da un altro aspetto, cioè il petrolio basso oggi è ritornato a $50 al barile, però è un vantaggio enorme per noi, a maggior ragione lo continuiamo a spiegare, visto che il petrolio è basso, ma e ci permette anche di gestire meglio un euro basso, perché avessimo un euro basso e un petrolio alto avremmo inflazione importata. Però è chiaro che qualcuno ne paga le conseguenze, e non sono solo i paesi produttori che vedono calare e di molto i loro introiti, così come invece noi ne abbiamo un beneficio netto, noi non solo, anche tutta l'area euro. Ci sono sostanzialmente, pensate che per l'Italia il risparmio mensile è di 1,7 miliardi al mese, ma ci sono invece i titoli che subiscono il calo del petrolio, e mi riferisco a tutti i titoli petroliferi. Pensate che la britannica British Petroleum, BP, in sei mesi ha perso il 25% del suo valore in borsa, la francese Total il 25%, Royal Dutch Shell il 16%, Exxon Mobile e Chevron hanno perso circa il 20%, tra il 10 e il 20% in borsa. E poi ci sono anche le conseguenze per chi lavora in questi settori. Oggi si è saputo, per esempio, che ieri è arrivata la prima notizia di un cancellamento della Shell, era un accordo Shell e Qatar Petroleum, un progetto per costruire un impianto petrochimico in Qatar da 6 miliardi e mezzo di dollari, annullato, non è più commercialmente sostenibile, fattibile con questo prezzo del petrolio. E a ottobre si era già fermato un progetto della Qatar Industries che valeva un altro impianto, 6 miliardi di dollari. Ieri il colosso americano Chevron ha reso noto che abbandonerà il piano di investimento da quasi 700 milioni di dollari per produrre gas dai giacimenti in Bangladesh. E poi British Petroleum oggi ha annunciato che taglierà 300 posti di lavoro nei suoi progetti nel Mare del Nord. Riguarderanno 200 posti nello staff e 100 invece di contrattisti. Questo perché chiaramente a questi livelli di prezzo le compagnie rifanno tutti i calcoli. Ultima cifra, quella per i vostri sms, 349-238-6666, poi come sempre la pagina di Focus Economia su Facebook. Rapidamente le altre notizie in breve. Stanno aiutando, mi scrive la parità, l'euro andò sotto la parità 1-1 da gennaio 2000 fino a dicembre 2003, vi ricordavo bene, minimo a 0,85 a fine novembre 2000, chi ci chiede ma perché è un male se l'euro vale più del dollaro? No, non è un male, cioè è un male se l'euro è troppo forte sul dollaro, perché diventa molto difficile esportare, nel senso che tu, così come un euro forte è un vantaggio se tu vai negli Stati Uniti o in tutta l'area dollaro, quindi anche il centro e Sud America, perché ti costa meno quello che acquisti lì. Se tu sei un'impresa che esporta e l'Italia si sta reggendo praticamente solo sull'export, visto che i consumi non ci sono o sono in calo, Beh, è chiaro che l'euro forte vuol dire che i tuoi beni, i beni e i servizi che esporti costano di più, un euro debole costano di meno, quindi sei più competitivo in quei mercati. Insomma, l'euro ha perso circa il 20%, vuol dire che in questo momento il bene che tu esporti, che sia l'agroalimentare, che sia la meccanica, che sia l'elettronica o l'elettrotecnica, costa a listino un 20% in meno in tutta l'area dollaro. I titoli. Allora, oggi forte tutto il lusso, Moncler più 6,25%, ma bene anche gli energetici, Enel più 4, Eni più 3,56%, poi Tenaris più 4,30%. Sul lusso, dicevo, oltre a Moncler anche Ferragamo più 2,80%, Wall Duty Free più 3,12%, che associamo, insomma, Yux più 3,15% e Luxottica più 2%. Negativa Saipem dell'1%, Tod's che appunto va in controtendenza rispetto al settore, meno 0,60%. Anche qui sul lusso, soprattutto il lusso si muove bene grazie alla svalutazione, o meglio alla debolezza relativa dell'euro, perché i mercati dell'area dollaro, che hanno come il dollaro come riferimento, sono mercati importantissimi anche e soprattutto per l'export del tessile abbigliamento italiano. Le banche oggi non preoccupano, nel senso che abbiamo Popolare Emilia Romagna che guadagna il 2,5%, Banco Popolare pure, Intesa anch'essa il 2,5% di rialzo, e sono le tre migliori in questo momento. Poi ci sono altre banche che guadagnano tra l'1 e il 2%, penso a Unipolsai da un lato, alla Pop Milano più 1,13%, e Ubibanca più 1,70%. La più debole è il Monte dei Paschi, che guadagna solo lo 0,54%. Di petrolio abbiamo detto, sì, o meglio va anche ricordato che per la prima volta dal 6 gennaio dalla Befana il petrolio a New York è tornato vicino alla soglia dei $50, poi ha ritracciato a 48,6. Adesso però io invito tutti a non fare commento, la cronaca minuto per minuto del prezzo del petrolio. La cosa importante è che a settembre il petrolio viaggiava ancora verso i $97-98 al barile, quindi ha perso il 50% del suo valore. Tra l'altro è iniziato, oggi si è tenuto a Mosca l'incontro a porte chiuse tra il leader del Cremlino Vladimir Putin e il presidente venezuelano Nicolas Maduro. Sono i due paesi che forse stanno subendo, per motivi anche un po' diversi, di più il calo del prezzo del petrolio. Il Venezuela perché ha tutta l'economia che si basa sul petrolio, e la Russia anche se ieri facevamo notare che il prezzo del gas questa volta non ha seguito il prezzo del petrolio, è anche aumentato in parte. Però la Russia ha un problema relativo alle esportazioni di petrolio, quindi il valore è crollato. Poi ha anche il problema dell'embargo, e quindi ha un doppio problema. E ieri ricordavamo come la stima quest'anno per l'economia russa sia in un calo pesante del PIL, quasi vicino al 3%. Via libera, come annunciato ampiamente dagli Stati Uniti, le nuove regole per il commercio e i viaggi verso Cuba. Sono state tolte la maggior parte delle restrizioni, quindi con le nuove procedure gli americani potranno andare a Cuba senza un permesso speciale e per i motivi più svariati. Potranno anche usare la carta di credito e acquistare souvenir fino a $400 e comprare fino a $100 in alcol e tabacco. Sapete che i sigari cubani erano venduti ricercatissimi negli Stati Uniti, tutti illegali, e potranno appunto comprare anche rum e sigari. Le nuove regole renderanno anche più facile ai fornitori americani nel settore delle telecomunicazioni fare affari con Cuba. In realtà fino a qualche mese fa c'era un'ipocrisia di fondo, cioè molte imprese americane facevano già affari con Cuba, passavano però da controllate messicane o canadesi per evitare appunto l'embargo che gli Stati Uniti avevano messo a Cuba. Gli americani potranno poi inviare più soldi a cittadini cubani fino a $2,000 ogni 3 mesi invece degli attuali $500. all'Europa. Allora, la Germania, nonostante le varie crisi internazionali, nel 2014 è cresciuta come non accadeva dal 2011. Il PIL tedesco, infatti, ha segnato un più, il dato definitivo, più 1,5% nel 2014. Ricordo che nel 2013 fece un più 0,1% e nel 2012 un più 0,4% l'economia tedesca. L'avanzo di bilancio, quindi non solo non c'è deficit, ma le casse federali hanno più soldi di quanti ne abbiano spesi, casse federali e anche i Länder, e i comuni hanno praticamente un avanzo dello 0,4% del PIL, vuol dire che hanno 12 miliardi di euro in più rispetto a quanto speso, che è appunto lo 0,4% del PIL tedesco. E a proposito d'Europa, il vicepresidente della Commissione Europea, il finlandese Katainen, uomo del rigore, uomo molto vicino alle posizioni tedesche, ha detto: tutta l'Europa ha un disperato bisogno di crescita, aggiungiamo noi, alcuni un po' di più, alcuni un po' di meno. Tutti i paesi soffrono di una carenza di investimenti. Oggi Katainen era a Roma, aveva vari incontri istituzionali. Il piano di Juncker non è una bacchetta magica, non si preoccupi Katainen, nessuno l'ha mai pensato. E poi ha parlato anche del Jobs Act italiano, è equo per i giovani, aiuterà le assunzioni ed è possibile per l'Italia, anche se dobbiamo capire le prossime previsioni, che l'Italia sfrutti le nuove clausole sulla flessibilità, che poi non sono nuove, come spiegava bene ieri Adriana Ceretelli, sia sul Sole 24 Ore che ai nostri microfoni. È un ritorno ai vecchi principi del patto di Maastricht e non all'interpretazione rigida, ragionieristica del patto di stabilità degli ultimi anni, per cui non c'è nulla di nuovo in realtà. Però sentiamo questo passaggio del vicepresidente Katainen. L'agenda di riforme che ha messo a punto l'Italia penso che sia molto positiva. So che alcune riforme hanno suscitato dibattito politico e non hanno raccolto il favore di tutte le parti, ma guardando per esempio al Jobs Act, credo che sia stata la cosa giusta da fare. Credo che sia molto positiva. Aiuterà soprattutto i giovani a trovare un lavoro, creerà un dinamismo positivo per l'economia italiana. Sono fiducioso sul fatto che saranno creati più posti di lavoro e che ci sarà più crescita nel paese. Penso che sia importante anche la riforma della giustizia. Se guardiamo alle statistiche, ci sono differenze enormi tra gli stati. Non solo qui in Italia, ma anche qui in Italia, i tempi dei processi sono molto lunghi e questo ha un impatto negativo sulla crescita e sull'attività economica. Quindi la riforma della giustizia insieme a quella della pubblica amministrazione sono molto positive e la Commissione le sostiene pienamente. Sempre Katainen ha precisato che l'Italia non ha ancora deciso la sua partecipazione al fondo lanciato, il fondo di investimento lanciato dal presidente presidente della Commissione Europea Jean-Claude Juncker. Il ministro Padoan mi ha detto che l'Italia non ha ancora deciso se partecipare o meno al fondo di investimento EFSI. Certamente il governo farà ciò che ritiene più giusto. Ovviamente speriamo che gli stati investano nell'EFSI, perché così aumenterebbe la capacità di prestito del fondo. Un maggior numero di persone troveranno un lavoro se gli stati metteranno delle risorse ulteriori nel fondo. Questo è quello che vorremmo accadesse. Ma anche se gli stati non metteranno capitale aggiuntivo nel fondo, si potrà comunque operare in modo efficiente. Ci sono circa 60 miliardi di capacità di prestiti pubblici in grado di mobilitare denaro privato per gli investimenti. Ho sensazioni positive sul fatto che molti stati membri stiano considerando di partecipare al fondo, ma nulla è ancora sicuro. Sulla Svizzera c'è un'altra notizia, oggi sembra quasi una coincidenza, però c'è la notizia che probabilmente con ogni probabilità l'accordo con la Svizzera per la parte fiscale verrà firmato a metà febbraio, lo ha detto Vieri Ceriani, che è il consigliere degli affari fiscali al Tesoro. L'accordo conterrà, lo ricordo, lo scambio di informazioni di natura finanziaria anche per un percorso che riguarda i frontalieri, la città campione d'Italia, proprio campione, e la blacklist. La Svizzera vuole uscire dalla lista nera con questo accordo. Poi ne parleremo, perché ne abbiamo già parlato altre volte. Sostanzialmente, grazie, quando verrà ufficializzata la firma dell'accordo con la Svizzera, scatterà lo sconto su sanzioni e tempi per l'accertamento per chi decide di aderire al voluntary disclosure. Dopodiché invece le sanzioni saranno pesanti, andranno anche sul penale. E infatti lo stesso Vieri Ceriani ha detto: attenzione, la voluntary disclosure sarà possibile fino a settembre di quest'anno, è l'ultima occasione per mettersi in regola con il fisco senza incorrere in sanzioni anche penali per i reati fiscali. Allora, molti messaggi sul tema del petrolio. Il prezzo della benzina non è calato non è calato come il prezzo del petrolio, perché solo un terzo del prezzo della benzina è il prezzo del petrolio, il resto sono accise e IVA. Però è calato questa volta in maniera direi praticamente parallela, nel senso che la benzina ha fatto un meno 16%, con un petrolio che ha fatto un meno 45-50. Ci siamo come calo, visto che pesa per un terzo. Poi molti ci chiedono: l'euro forte è un vantaggio anche per chi si indebita in dollari? L'euro forte è un vantaggio per chi si indebita in dollari, e l'euro debole è uno svantaggio per chi si indebita in dollari. Su questo non ci sono dubbi, ma onestamente l'effetto complessivo è più positivo che negativo. Perché ci vuole un po' di inflazione in un paese in buona salute economica? Perché se l'inflazione non è importata, cioè se non è dovuta al prezzo del petrolio e al valore del dollaro, un po' di inflazione, la dottrina della Banca Centrale Europea ritiene vicina al 2%, sta a significare che c'è un'economia viva, dinamica, che spende, quindi crea un po' di tensione sui prezzi. Se poi la tensione è troppa, cioè l'inflazione va oltre il 2%, la Banca Centrale Europea interviene aumentando i tassi di interesse, rendendo più costoso il denaro e raffreddando un po' l'economia. Però se l'inflazione non c'è, vuol dire che non c'è nessuna tensione sui prezzi, perché non ci sono consumi, la gente non spende, spende meno, e i prezzi quindi non crescono, non si muovono. Quindi un'inflazione inesistente o addirittura una deflazione, oltre che avere un effetto negativo su tutti i debitori, perché a valori reali aumenta il valore del tuo debito mentre l'inflazione lo erode, oltre a questo è il termometro di un paese, in questo caso anche l'Italia, dove i consumi non ci sono, sono così piatti, così deboli, che i prezzi non si muovono, addirittura un po' calano. Va bene, la borsa ha chiuso più 2,32%, più 2% Parigi, più 2% anche Francoforte, più 1,44 Londra, meno 0,40 l'America. Dopo il meteo e la pubblicità, invece, parliamo appunto prima della borsa, ma anche dell'elettronica e elettrotecnica, settore importante, 50% del fatturato viene realizzato all'estero. Il meteo. A 7:35 minuti, di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Allora, prima di arrivare alla borsa, invece, siccome ce l'abbiamo in collegamento, come annunciavo, riprendiamo il viaggio che abbiamo fatto in tutti gli ultimi mesi del 2014 nei vari settori produttivi del paese, e oggi è la volta del settore elettrotecnico ed elettronico. Voi direte: settore di nicchia? Beh, mica tanto, nel senso che sono 410.000 addetti, 56 miliardi di settore di fatturato, di cui 29 miliardi, quindi ben più del 50%, che vanno in esportazioni. Tra l'altro, le industrie del settore, che sostanzialmente sono riunite nell'associazione ANIE, associazione di Confindustria, hanno una media di investimenti in ricerca e sviluppo del 4%, che da solo, o meglio, tutti gli investimenti del settore fanno il più del 30% degli interi investimenti in ricerca e sviluppo di tutto il settore privato in Italia. Perché l'elettronica, l'elettrotecnica è chiaramente un settore ad alta innovazione e valore aggiunto negli investimenti, però più di un terzo di tutto quello che si investe in Italia in ricerca e sviluppo nel settore privato lo fanno le aziende elettroniche e elettrotecniche. Siamo in collegamento con il presidente di ANIE, Claudio Andrea Gemme, buonasera. Buonasera, buonasera. 1200 aziende associate, dicevo, ottimi dati sulla quota di export. L'anno scorso si è chiuso con un più 1,5% rispetto al già buono 2013. Quali aree, perché voi siete divisi in due grandi famiglie, no? Elettronica e elettrotecnica, quali i settori che meglio sono andati e in quali aree geografiche, Gemme? Ma direi innanzitutto che l'elettronica, proprio grazie al grandi investimenti in ricerca e sviluppo, ci ha dato la possibilità di ancora migliorare la nostra tecnologia, e quindi l'elettronica ci ha dato grandi spazi e possibilità di crescita, che si diciamo avrà una propagine interessantissima ancora nel 2015, per un combinato disposto tra, in questo momento, il dollaro debole. Tant'è vero che gli Stati Uniti ci stanno dando soddisfazione dal punto di vista dell'esportazione, cosa che non avveniva nel 2012-2011, ma a finire dal 2014 in poi è iniziata questo trend positivo. 2013 in poi, immagino. Dal 2013 in poi, sì, ma sul finire 2013, sul finire. 2014 poi 2015. E quindi l'inizio dell'anno già ci dà segnali positivi. Diciamo, quindi l'export ci aiuta sicuramente, perché in Italia ovviamente non abbiamo grandi spazi e possibilità di crescita. Ecco, il motivo per cui parliamo con voi oggi, a parte il fatto appunto che rappresentate uno dei settori produttivi più importanti del paese, è che dal prossimo 18 gennaio, da domenica, inizia una vostra missione importante all'estero. Fino al 20 sarete negli Emirati Arabi Uniti. C'è la manifestazione filistica Intersec con focus sulla sicurezza, poi vi sposterete dal 25 al 30 gennaio ai Technology Days in Qatar e Oman, e dal 5 al 7 febbraio andrete sempre per una fiera di settore al SPS Automation in India. Qual è l'obiettivo di una missione che dura dal 18 sostanzialmente fino al 7 febbraio? Ma intanto le nostre aziende devono avere un ritorno rispetto agli investimenti enormi che hanno fatto, quindi si aspettano in questi paesi di avere, attraverso il nostro approccio B2B, quindi il contatto diretto con il cliente, di avere possibilità di sviluppare il proprio portafoglio ordini. E questo è l'obiettivo che nasce proprio da Dubai, che ha tra l'altro un duplice scopo, quello di capire anche come promuovere Expo, perché poi alla fine noi faremo questo lungo giro, ma in realtà vorremmo portare questi nostri clienti in Italia presso l'Expo, e quindi dare continuità a questa nostra azione. Quindi è una promozione importante per le nostre aziende. Poi proprio Dubai c'è questo safety, che è un tema interessantissimo alla luce di quello che sta succedendo nel mondo in questo momento. La sicurezza è uno dei temi più caldi, tant'è vero che se noi guardiamo l'unica associazione in crescita nell'ambito della federazione ANIE, che sono 13, è proprio quella della sicurezza. I recenti fatti, quindi i temi della videosorveglianza, della sicurezza, della vigilanza, danno, ahimè, ma anche per fortuna, spazio alle imprese che fanno quelle produzioni, quindi stiamo vedendo un trend di crescita importante. E le imprese, per mia ignoranza glielo chiedo, ma le imprese italiane sul fronte di tutte l'elettronica e l'elettrotecnica di sicurezza, sui sistemi di sicurezza, come è posizionata? Stanno posizionandosi in grande crescita, tanto è vero che se facciamo la media pesata dei volumi che è riuscito a esprimere nel 2014 Anie, c'è un segno positivo, ma dovuto sostanzialmente per l'Italia, quindi per il nostro paese, al settore della sicurezza che ha avuto più del 2% di crescita. Ecco, lei citava i fattori internazionali, ahimè, in riferimento agli attentati a Parigi e poi a quello che ne è conseguito, però ci sono altri fattori internazionali, per fortuna meno cruenti, ma non per questo meno importanti. Mi riferisco da un lato a un euro che anche oggi ha toccato nuovi minimi, certo, e quindi dovrebbe avvantaggiarvi soprattutto in tutta l'area dollaro, certo, rendendo a questo punto più convenienti dal 20% intorno al 20% i prezzi che voi offrite. Dall'altro però, visto che fate questa missione negli Emirati Arabi e poi anche Qatar e Oman, c'è un tema che riguarda il petrolio, cioè i paesi dell'OPEC avranno minori introiti. Ecco, in questo momento lei vede più benefici o più rischi? Ma in realtà vedo un'opportunità, perché tutti questi paesi, in realtà, proprio per effetto del costo del petrolio, eccetera, alla fine devono cioè estrarre petrolio, ma per estrarlo devono consumare il meno possibile. Quindi la nostra proposta è estrarre petrolio con un approccio tecnologico più avanzato, quindi il saving energetico, che una volta non era così mandatorio per quanto riguardava gli azionamenti elettrici, oggi diventa importante. Quindi l'utilizzo della frequenza variabile, l'utilizzo delle tecnologie che ti permettono di fare un saving è altrettanto importante. Quindi, certo, voglio dire, è vero che c'è il costo del barile che sta andando dove sta andando, però noi pensiamo di compensare questa cosa con questo effetto. Poi c'è da dire che anche questi paesi, proprio nella logica di traguardare un futuro diverso, guardano le energie rinnovabili, guardano le energie rinnovabili non tanto come l'impianto solare o l'impianto eolico, ma li guardano in un contesto sempre di saving e quindi con uno stoccaggio dell'energia incluso. Quindi voi dite, proprio perché adesso i prezzi sono bassi, andiamo a proporre, traduco in maniera un po' brutale, ai paesi produttori di avere dei costi più bassi di estrazione, certo, di gestione, di tutte le estrazioni, perché con questi margini non se lo possono più permettere di scialare, a questo aggiungo io, e quindi lì comunque troviamo un'opportunità. Per quello che riguarda invece il dollaro forte e l'euro basso, vedete già delle possibilità, dei vantaggi, perché quelli nell'area dollaro sono vantaggi, basta. Sì, cioè, voglio dire, io, come ripeto, gli Stati Uniti ci danno grande soddisfazione, perché voglio dire, è vero che Obama ha pensato al reshoring, quindi ha riportato le fabbriche negli Stati Uniti, però di fatto noi andremo negli Stati Uniti, le nostre aziende produrranno anche localmente, ma con un vantaggio del dollaro che oggettivamente ci dà più spazio. Beh, un po' di fiducia, Gemme, mi sembra, per concludere sul 2015, no? Ma io direi sostanzialmente di sì, cioè tutti gli investimenti fatti e che continuano ob torto collo a essere necessari, perché poi alla fine il nostro settore ha un'obsolescenza molto rapida, no? Quindi la necessità dell'investimento è mandatoria per le nostre imprese, e nello stesso tempo ti dà la possibilità di essere sempre aggiornato, up to date dal punto di vista del prodotto. E quindi io vedo, io sempre sono un positivo e vedo sempre il bicchiere mezzo pieno. Quindi 2015. Senta, per concludere, il tema delle dimensioni delle imprese invece nel vostro settore, dove appunto, come ricordavamo, la ricerca e sviluppo è un elemento fondamentale, oltre che le spese, chiamiamole così, per rappresentanza, perché anche per voi i mercati sono fuori e sono sempre più distanti, alla luce anche di quanto stava ricordando, lì non si riesce a superare quello che sembra uno degli ostacoli interni, non parlo di quelli esterni, burocrazia, pressione fiscale, costo dell'energia e certezza del diritto, parlo degli ostacoli interni al settore, non si riesce a superare? Ma superare ovviamente No, ma dico non obbligando le persone a vendere o a fondersi, ma magari creando anche strutture di rete, come state facendo, missioni integrate. Ma devo dire che stiamo lavorando molto bene con ICE, col Ministero, quindi bene, stiamo facendo un ottimo lavoro insieme. Quindi Il fatto che poi a suo tempo Monti avesse deciso di chiedere proprio aziende, a associazioni, a federazioni come la mia, di mettere personale tecnico all'interno, quindi è nato un sodalizio importante, io credo, il fatto di andare insieme poi semplifica e ci posiziona sicuramente in modo più vantaggioso in questi mercati. Devo dire che sta funzionando anche il sistema Italia. Ogni tanto sentirselo dire non fa male. Grazie al presidente di ANI e Confindustria, Claudio Andrea Gemme. Grazie e buona serata. Vabbè, vedo che c'è chi si lamenta dell'ottimismo, ragazzi, ma in questo momento di tutto possiamo lamentarci, tranne che se qualcuno o qualcosa ci induce a essere cautamente ottimisti, cautamente positivi. Sono variabili esterne, nessuno si sta incensando. Il petrolio non dipende da noi, dipende dallo scontro, vi ho spiegato mille volte, tra paesi produttori e Stati Uniti. L'euro debole non dipende da noi, dipende dal fatto che l'America ha ripreso a correre a pieno regime, che il valore dell'immobile è andato a livelli prima della crisi, che ha smesso di stampare dollari, che quindi ci sono tutti i presupposti perché il dollaro finalmente si rafforzi nei confronti dell'euro. Però se elementi esterni nella vita migliorano la tua situazione, in economia si chiamano botte di Dick, e prendiamole, no? Con tutto il resto di botte che abbiamo preso in questo periodo. Su chi dice invece, ma come si fa a dire che un po' di inflazione ci voglia? Io ho detto solo che un po' di inflazione è, non so come dire, è un sintomo salutare di un'economia, un po' di inflazione, un pochino, non so, posso fare l'esempio, un po' di ciccia è sintomo di salute, si può dire, non so, magari la Nicoletta Carbone poi mi riprende su questo, cioè non si può essere né troppo magri né troppo grassi, mettiamola così, ok? Allora, 349-238-6666 per i vostri sms, la pagina di Focus Economia su Facebook, traffico e poi borsa. minuti, allora la borsa, sì, ha ragione l'ascoltatore che dice non si deve usare il termine mandatorio in italiano, mandatory in inglese vuol dire obbligatorio, ha ragione, ogni tanto noi cerchiamo di correggere sempre gli inglesismi, avremmo dovuto correggere l'inglesismo anche del presidente Gemme. La borsa, Eleonora Micheli, buonasera, Radio Core Sole 24 Ore. Buonasera. Allora, una sbandata stamattina e poi invece tutto un recupero nel pomeriggio, così potremmo titolare la giornata, più 2,36% nel finale Milano, anche Parigi più 2,36%, Francoforte più 2,20%, Londra più 1,70%, l'America continua a perdere lo 0,20%, annullato e archiviato l'effetto Svizzera, tutte in recupero le borse, soprattutto col settore lusso, Eleonora. Esatto, è andato bene il settore lusso, ma anche il petrolio, perché peraltro il settore petrolifero, perché il petrolio nel primo pomeriggio era arrivato a guadagnare oltre il 4%, il WTI poi in verità adesso ha di nuovo imboccato la strada del ribasso e perde oltre il 2%, attestandosi a $47.42. Per quanto riguarda il lusso, ovviamente si scommette sull'euro debole, che favorisca le esportazioni di questo settore, quindi in particolare ad esempio Luxottica ha aggiornato nuovi record storici, le azioni si sono spinte oltre 48 euro per azione, anche perché Luxottica, ricordiamo che esporta un po' in tutto il mondo, ma soprattutto la grossa fetta del proprio fatturato è realizzata proprio in Nord America, quindi favorita sia dall'andamento dell'euro dollaro sia anche dal fatto che l'economia americana, come sappiamo, va molto bene. Poi altrettanto si può dire Moncler è salita del 5,8% e poi chissà, magari gli investitori scommettono che nei prossimi giorni, in occasione delle presentazioni delle collezioni maschili proprio qua a Milano, escano delle novità, delle notizie positive sull'azienda. Ancora sì, infatti sono tutti in recupero tranne un titolo che a maggior ragione fa notizia oggi, Tod's, che perde lo 0,90%. Tod's infatti è andato in controtendenza anche a causa di un report di JP Morgan che ha consigliato di essere cauti sull'azione. Tod's esporta in tutto il mondo, ma rispetto alle altre case di moda, diciamo, è più presente in Italia e in Europa. Ebbene, appunto, come tu già citavi gli altri titoli, a partire da Moncler più 5,80 e poi World Duty Free più 3. Tra l'altro World Duty Free fa molto fatturato anche negli Stati Uniti. Hughes più 3%. Ancora Luxottica più 2,16%. Bene, oggi tu già vi accennavi, Leonora, gli energetici, tranne Saipem, che invece è il peggior titolo tra quelli a maggiore capitalizzazione, perde l'1%, ma bene Enel più 4, Eni più 3,70 e Eterna più 2,40%. Eleonora. Per quanto riguarda Enel, più 4%, va detto che le azioni hanno perso quota nell'ultimo periodo, quindi secondo gli esperti hanno raggiunto livelli di prezzo interessanti. E poi è piaciuta l'operazione di ristrutturazione del debito annunciata proprio ieri dall'azienda. Poi ripeto, i petroliferi sono stati spinti all'insù un po' dal tentativo di recupero del prezzo del greggio, che però ora è tornato a scivolare. Non ne ha beneficiato Saipem, meno 1%, perché anche gli esperti continuano a raccomandare cautela nei confronti di una società che ha visto saltare il progetto South Stream e comunque ha delle prospettive poco esaltanti, in considerazione del fatto che il basso prezzo del petrolio ovviamente scoraggia anche tutti gli investimenti offshore. Sì, ne parleremo più avanti. Ancora su World Duty Free, tu ricordavi giustamente il nuovo piano industriale, ricavi 3 miliardi in 3 anni. Sì, esatto. World Duty Free oggi ha presentato il piano triennale, punta a raggiungere oltre 3 miliardi nel 2017, ma soprattutto dovrebbero migliorare anche i margini dell'azienda, progredendo di oltre il 5% in media ogni anno. Peraltro sì, questo piano non tiene conto di eventuali acquisizioni che invece la società già da tempo ha detto di proporsi di effettuare. Allora, su Saipem, tra l'altro volete sapere, ma insomma Saipem è un po' che sta soffrendo, ci sono varie voci su cosa ne farà l'ENI, e appunto c'è il giudizio negativo di Citigroup, quello che tu citavi prima. Invece le banche oggi, il Monte dei Paschi è positivo, ma è comunque la peggiore tra le banche. Cito le percentuali, poi a te il commento. Per quello che riguarda i titoli bancari, partiamo proprio dal Monte dei Paschi, più 0,60%, abbastanza al palo anche la Pop Milano, più 0,70%, invece Unicredit più 1,20%, ancora per quello che UbiBanca più 1,66%, e sempre salendo Mediobanca più 2%, Popolare Emilia Romagna più 2,26%, Banco Popolare più 2,85%, Intesa San Paolo più 2,90%, le banche e Monte dei Paschi. Sì, le banche sono andate bene perché ovviamente gli investitori scommettono che a questo punto, anche dopo la mossa della banca svizzera, sia più imminente un'operazione di quantitative easing e sarebbero proprio le banche a beneficiarne per prime. MPS è rimasta tuttavia al palo e per tutta la giornata ha fatto peggio rispetto al settore, perché ricordiamo che oggi il presidente Alessandro Profumo e l'amministratore delegato Viola hanno incontrato la vigilanza della Banca Centrale Europea per discutere il piano di rafforzamento del capitale, dopo che lo scorso autunno è venuto fuori che c'è un gap nel patrimonio della banca per 2,1 miliardi, quindi l'istituto è chiamato a effettuare un aumento di capitale almeno da 2,5 miliardi, il cui consiglio di amministrazione lo analizzerà proprio domani si riunisce appunto il CDA di Rocca Salimbeni. Ovviamente nell'incertezza anche di questa operazione gli operatori sono stati più accorti, insomma hanno comprato meno le azioni di MPS. Allora, per quello che riguarda gli altri titoli, andiamo anche sui migliori e peggiori. Di Atlantia, comunque abbiamo detto, l'ex società autostrade più 4,56%. Per quello che riguarda invece i migliori e peggiori in assoluto, abbiamo da un lato Eurotech più 8%, Ambro Mobiliare più 6,40%, Italia Mobiliare più 6,20% e appunto Moncler. Fronte opposto invece EMS meno 7,22%, Poligrafici Printing meno 7%, SAT meno 6,50%. titoli molto sottili, Seat pagine gialle meno 3,85%. Grazie Eleonora Michele, Radio Corriere Sole 24 Ore. Oh, sta per arrivare il GR24, poi parliamo di petrolio e investimenti, cioè di chi invece riduce gli investimenti per via del petrolio, basso come prezzo, e della Svizzera, nel doppio senso dell'accordo possibile con la Svizzera, che ormai viene dato per certo l'accordo fiscale entro metà febbraio, e soprattutto per quello che è successo oggi alla borsa e a molti titoli svizzeri con cali superiori al 10%. 349-238-6666 per i vostri sms, la pagina di Focus Economia su Facebook. E 7 minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Allora il tema che ci sta appassionando, comunque seguendo, ci sta facendo concentrare da intere puntate, il petrolio. Oggi vorremmo affrontare in un altro modo. Allora, il prezzo è tornato oggi vicino ai $50 al barile, per poi ridiscendere a 47-48, ma non è questo il tema oggi. Abbiamo raccontato, come dicevo in apertura, per intere puntate e settimane tutti i vantaggi che il nostro paese, ma non solo, hanno da un petrolio basso come prezzo, soprattutto perché c'è un petrolio basso che sostanzialmente non genera il problema che ci avrebbe generato un dollaro forte se il petrolio fosse rimasto su alti livelli, quindi annulla e va anche oltre l'effetto del dollaro forte. C'è però chi soffre per il petrolio basso, e non voglio spendere con massimo rispetto una lacrimuccia per i paesi produttori di petrolio a partire dai paesi dell'Arabia Saudita e della penisola arabica, perché abbiamo raccontato anche ieri che insomma ci sono perdite intorno ai 160 miliardi per l'Arabia Saudita, mentre l'Italia ha un vantaggio di 1,7 miliardi al mese come risparmio nella bolletta petrolifera. Complessivamente Germania, Spagna e Italia dovrebbero vedere crescere con un petrolio a $50 il PIL di uno 0,4% solo grazie a questo. Gli Stati Uniti avrebbero un beneficio dello 0,7% sul PIL, Gran Bretagna e Francia dello 0,6%. Ci sono paesi che invece verrebbero danneggiati, paesi produttori anche in Europa: l'Olanda meno 0,4%, Norvegia meno 1,2%, la Russia meno 3,2% l'effetto sul PIL, e l'Arabia Saudita meno 3,5% l'effetto sul PIL dovuto a un petrolio che si mantenesse a $50 al barile. E infatti ci sono già cancellazioni di investimenti. Il British Petroleum oggi ha annunciato che taglierà 300 posti nel Mar del Nord. Ieri il colosso americano Chevron ha abbandonato un progetto di investimento in Bangladesh da 650 milioni, e sempre ieri Shell e Qatar Petroleum hanno annunciato di rinunciare al progetto da un impianto da 6 miliardi e mezzo di dollari, impianto petrochimico in Qatar. Ma tutto questo lo tiene insieme meglio di me l'esperta di petrolio per il Sole 24 Ore, Sissi Bellom. Buonasera. Buonasera. Dunque, noi giustamente guardiamo ai benefici di un petrolio basso, a maggior ragione visto che c'è anche un dollaro forte, però insomma da qualche parte si inizia a soffrire. C'è anche c'è stato un incontro oggi anche tra Putin e Maduro. Voi direte: chi è Putin? Voi direte: chi è Maduro? Maduro è il presidente venezuelano. E ora, se la Russia ha dei grossissimi problemi sia dell'embargo che del prezzo del petrolio basso, forse ne ha ancora di più, e non c'è nessun embargo, in Venezuela, che basa tutta la sua economia su un petrolio, tra l'altro nemmeno di grandissima qualità, se non ricordo bene. Petrolio costoso sicuramente da estrarre, costoso da commercializzare, e comunque insomma ha una gestione economica che a monte l'ha messa veramente in crisi. C'è addirittura scarsità di cibo in Venezuela. Venezuela sta cercando disperatamente per l'ennesima volta di concentrare il massimo di consenso all'interno dell'OPEC perché si faccia qualcosa, perché si reagisca con un taglio concordato della produzione da parte dell'OPEC, cosa che ormai è chiarissimo l'OPEC non intende fare, o almeno non intendono fare le potenze all'interno dell'OPEC, a partire dall'Arabia Saudita, che però ha i suoi alleati nel Golfo, nonostante anche loro stiano cominciando, come dicevi, a scricchiolare dal punto di vista delle finanze pubbliche. Hanno riserve enormi accumulate in anni e anni di prezzi del petrolio oltre $100 dollari al barile, per cui nessuno è preoccupato per le loro sorti. 150 miliardi in meno dovrebbe prendere solo l'Arabia Saudita, se ho ben visto le stime, dovrebbero entrare con un petrolio a 50 dollari. Infatti oggi stavano circolando le prime indicazioni sul fatto che potrebbe essere costretta per la prima volta dopo moltissimi anni a tagliare il budget statale. E ridurre le spese in quei paesi può anche significare diminuire le difese da eventuali rivolte interne, da eventuali proteste, perché certo, i paesi foraggiano la tranquillità pubblica con... Beh, magari possono foraggiare anche meno alcuni simpatici gruppi islamici no, all'estero. Questa è un'altra battuta. No, invece attenzione, perché poi l'OPEC per noi è un'area geografica importantissima di sbocco per l'export. Sono grandi acquirenti del Made in Italy, inteso come legno arredo, meno sul fronte alimentare, però legno arredo e moda e anche la meccanica. E prima ci raccontava il presidente dell'ANI, anche per quello che riguarda l'elettrotecnica, l'elettronica da consumo, sono mercati di sbocco importanti. Dopodiché uno dovrebbe fare il calcolo quanto ci guadagniamo con un euro basso su tutta l'area dollaro e quanto ci perdiamo per un petrolio basso in quei paesi che importeranno un po' meno Made in Italy. Da quello che noi vediamo c'è ancora un netto vantaggio in questa situazione per l'Italia. Però le tensioni si stanno realizzando, sì, Bellomo, nei paesi produttori classici, quelli che noi immaginiamo sempre, l'Arabia Saudita, la penisola araba, Venezuela, ma anche nei paesi europei, perché le notizie di oggi riguardano per esempio tutti i lavori più o meno saltati o più o meno ridotti nel mare del nord europeo. Assolutamente, il mare del nord europeo è ancora un bacino di produzione relativamente importante, comunque importante per l'Europa, ed è purtroppo uno dei bacini di produzione petrolifera più costosi, e quindi si pensa spesso ai prezzi bassi freneranno le sabbie bituminose canadesi super inquinanti. No, freneranno e stanno frenando, ahimè, anche la produzione nel mare del nord, produzione offshore, produzione che è molto importante per paesi come la Norvegia. Proprio oggi la Norvegia ha aggiornato le sue previsioni su quanto saranno gli investimenti nel gas e nel petrolio nelle acque di sua competenza. Ovviamente prevede che ci sarà una diminuzione del 15% degli investimenti, che questo comporterà nel giro di qualche anno, perché poi la reazione è lenta, una diminuzione della produzione di petrolio. Quindi il crollo del petrolio, tutti aspettano di vedere segnali pazzeschi di frenata dello shale oil americano, ormai il faro del mercato è lì, ma ci sono già reazioni molto forti, molto rilevanti che si stanno osservando. BP, Conoco hanno annunciato licenziamenti nel Mare Nord, poca roba per carità, qualche centinaio di posti di lavoro per un'industria che ne assume e lavora a centinaia. Potrei fare un po' di polemica, magari prima di licenziare potresti anche ridurre i mega bonus di alcuni manager, ma non voglio tornare sui soliti temi, nel senso che l'industria del petrolio, beata lei, in questi anni ha recuperato subito il crack finanziario, quando è scesa a 38 dollari al barile, ma risalì rapidamente, ha macinato utili. Adesso capisco tutto, però come sempre la prima cosa è licenziare i contrattisti, poi sarei curioso di vedere cosa fanno, che bonus pigliano i vertici. Ha distribuito anche moltissimi dividendi e continua a distribuirli, ed è l'ultima cosa che taglieranno, hanno detto chiaramente, hanno fatto capire chiaramente le major che non possono permettersi di perdere il favore dei fondi, ma anche poi degli investitori, per carità, anche certo, noi possiamo in prima persona possedere titoli di petrolifere. E quindi questo riguarda tutto il mondo che appunto noi immaginiamo sempre come esotico, cioè medio orientale e sudamericano, ma in realtà è anche soprattutto in alcuni casi europeo, Norvegia e Gran Bretagna su tutte. L'ultimo aspetto riguarda l'incontro invece Putin-Maduro, perché insomma qui si sommano due debolezze. Putin è finito in una situazione che non immaginava probabilmente, sia perché non immaginava che in contemporanea con l'embargo sarebbe crollato il prezzo del petrolio, con un combinato disposto terribile per la Russia. Maduro è ai minimi nei sondaggi e praticamente lì il paese rischia veramente di ribellarsi, perché rivoltarsi, perché Venezuela vive esclusivamente sul petrolio. Ma che cosa potrebbe uscire da un incontro Venezuela-Russia, quando da quello che capiamo noi il boccino lo tiene ancora saldamente in mano l'Arabia Saudita? Penso ben poco, anche perché poi concretamente, anche se si accordassero fra di loro Venezuela, Russia, altri paesi produttori, che pure sono paesi produttori importanti, la Russia è ancora un produttore petrolifero importantissimo, paragonabile agli Stati Uniti sicuramente, uno dei primi tre paesi al mondo, non si possono permettere di diminuire anche i volumi al di là di tanti discorsi, e dovrebbero veramente ridurre ridurli in maniera drastica, molto drastica, per poter fare la differenza su un mercato del petrolio che non solo è notevolmente, visibilmente in surplus, l'offerta supera la domanda al momento attuale anche di un paio di milioni di barili al giorno, e quindi dovrebbero veramente ridurre molto la produzione, facendo un sacrificio ulteriore di perdere anche volume oltre che il prezzo unitario. E soprattutto il mercato avrebbe bisogno di questo segnale fortissimo. E poi chissà, perché certo, adesso c'è una speculazione negativa sui mercati del petrolio, cioè, come una volta tutti scommettevano al rialzo, insomma, adesso è una sorta di bolla negativa. Sappiamo che anche nel mondo finanziario esiste la stampede, la corsa dei cavalli, tutti a seguire. Un'ultima domanda invece: perché il prezzo del gas questa volta non ha seguito il prezzo del petrolio? Noi sappiamo che storicamente quando si arriva il petrolio si arriva il gas e viceversa. Questa volta c'è una divaricazione molto forte. Cominciamo a vedere la reazione, perché i contratti, sul gas bisogna fare una differenza fra i contratti indicizzati al petrolio, che comunque sono ancora molto diffusi in Europa. Gazprom vende quasi tutto il gas all'Italia, per esempio, con questi contratti di lungo periodo indicizzati a prodotti petroliferi. Hanno contenuto nei contratti un time lag, hanno un ritardo di adeguamento alle quotazioni, per cui nei prossimi mesi è assolutamente prevedibile che ci sarà un dimezzamento anche delle entrate legate al gas, tra l'altro per la Russia, per la problemi Russia. A problemi che si aggiungono, è un altro vantaggio. È il principale produttore di gas al mondo. Sul mercato spot segue altre dinamiche, ci sono stati problemi nei giacimenti norvegesi che hanno un po' però, sostenuto, ma è basso. I contratti di medio e lungo termine seguiranno a breve, il petrolio, con un ulteriore calo delle entrate. Il ritardo di 6-8 mesi per quello che riguarda la Russia, ecco perché vedevamo appunto due curve divergenti, e comunque con un vantaggio anche per noi come consumatori, perché quando questo calo del prezzo del gas si scaricherà anche appunto, calo del prezzo del petrolio si scaricherà anche sul gas, dovremo pagare meno la bolletta anche noi. Grazie a Sisi Bellomo, traffico. Sì, arriverà, insomma, quello che ha detto Sisi Bellomo è molto chiaro, con un po' di ritardo, con diciamo un time lag, come dicono gli inglesi, però arriverà anche il calo nel prezzo del gas. Alcuni scrivono: peccato che arriverà quando l'inverno sarà già finito. Beh, intanto aspettiamo che inizi queste temperature, non lo so, però non siete mai contenti. Allora, così come non riesco a, col massimo rispetto, a tirare fuori il fazzoletto per le lacrime per i paesi OPEC, ho difficoltà anche a piangere, me lo dico con massimo rispetto, per la Svizzera e per quello che sta capitando alla Svizzera, perché insomma adesso anche l'accordo che vuole fare con l'Italia, perché abbiamo dagli Stati Uniti in poi tutti hanno imposto la Svizzera questo accordo, ma a me un paese che fa del segreto fiscale uno degli elementi di forza della sua economia non me fa nessuna tenerezza, si può dire? Così come non me la fa chi porta i soldi in Svizzera illegalmente. Per cui che cosa è successo oggi? Balzo del franco svizzero dopo che la Banca Centrale Svizzera ha deciso di cancellare il tetto fissato a 1,2 del franco contro l'euro. Per cui siamo arrivati, il franco svizzero, o meglio l'euro, è sceso fino a quota 1,080, tetto che fu fissato, lo ricordavamo prima, a settembre del 2011, quando c'era l'attacco speculativo all'euro e la Svizzera temeva che tutti comprassero troppi franchi, il prezzo, il valore del franco salisse troppo, bloccando, rendendo difficili le esportazioni svizzere. Decise che dopo quota 1,2 lei sarebbe intervenuta come banca centrale e ha speso parecchi miliardi in questi anni per tenere il franco nel rapporto con l'euro al massimo a quota 1,2 franchi. Oggi, come ha ammalato il colpo, siamo arrivati a 1,08, quindi grande recupero del franco, ma soprattutto poi il tasso sui depositi è passato da meno 0,25 a meno 0,75%, anche qui depositi negativi per evitare l'apprezzamento eccessivo del franco, cioè che troppi volessero mettere soldi nelle banche svizzere. Crollo della borsa, meno 11%, crollo di vari titoli, Credit Suisse meno 13%, Roche farmaceutica meno 12%, UBS meno 11,60%, Holcim, che fa cemento, meno 13%, Swatch, orologi, ha fatto meno 16,5%, Richemont, che produce i gioielli di Cartier, ha perso un quasi 16%. Lino Terlizzi, la firma del Sole 24 Ore della Svizzera. Buonasera Lino. Buonasera a voi. Lino, tu operi il fisco, per il franco, bello stare in Svizzera, per questo. Allora, dici che cosa dobbiamo preoccuparci. Ti faccio sentire però di cosa è preoccupato Carlo Pagan, che è l'amministratore delegato del Casinò di Campione d'Italia, che ancora non sa che anche Campione d'Italia fa parte dell'accordo fiscale che oggi, per inciso, si è detto sostanzialmente addirittura d'arrivo entro metà febbraio, quello con l'Italia. Però ha detto che avranno un aumento di costi annui di 20 milioni in una sola giornata. Sentiamo l'intervista di Livia Zancaner. In questi anni il Casinò di Campione d'Italia ha avuto una flessione di incassi pari a zero gli ultimi 3 anni, mentre il settore ha perso 35 milioni di euro. Ma siamo soggetti a questi eventi che sono macroeconomici, che sono appunto legati al cambio. Cosa significa? Che noi da 3 anni facciamo 100 milioni di euro di fatturato, ma poi abbiamo tutti i costi interni, stipendi, il fisso che paghiamo al comune in franchi svizzeri. Negli anni pre-crisi questi 100 milioni di euro valevano 160 milioni di franchi. Oggi, con la parità, valgono 100 milioni di franchi. Quindi, in sostanza, ci troviamo 60 milioni di costi in più di franchi rispetto agli anni, diciamo, pre-crisi, ma anche 20 milioni in più rispetto a ieri, perché il cambio era 1,20. Il punto è che l'azienda, diciamo, sotto il profilo meramente gestionale sta andando bene, e qui c'è bisogno forse di un intervento straordinario che prescinde le forze del comune e dell'azienda. Bisogna un po' coinvolgere le istituzioni, perché questa è un'exclave, quindi è una parte d'Italia fuori dell'Italia, dentro la Svizzera, e quindi c'è bisogno di un supporto. Supporto, lei cosa intende? Un aumento di capitale, un nuovo socio? Va valutato un intervento che sostenga, che consenta la continuità aziendale, la continuità del paese. Poi gli strumenti, diciamo, io opero nell'ambito aziendale, questi sono strumenti politici che vanno discussi nelle sedi competenti. Breaking news. Le 18:25, la buona notizia della quale avevamo parlato nel GR delle 18 è stata confermata da Palazzo Chigi poco fa. Greta e Vanessa, le italiane, le giovanissime italiane rapite in Siria, sono libere, sono state liberate. Le due volontarie erano state rapite lo scorso luglio, sono dunque libere. Tutti gli aggiornamenti in GR 24 alle 19. Oh, buona notizia veramente quella che ci ha ricordato Annalita D'Ambrosio, grazie alla redazione. Quindi le due italiane liberate oggi, pochi istanti fa, almeno la notizia è arrivata pochi istanti fa. Comunque, Lino Terlizzi, ma tu te lo immaginavi un tale pandemonio per aver sostanzialmente levato un limite introdotto a fine 2011, Lino? Ma quando succedono queste cose in campo valutario, c'è chi piange e c'è chi ride. Hanno ragione entrambi, dipende dalla posizione in cui sono. Per esempio, abbiamo sentito le lamentele del Casinò di Campione. Effettivamente, se fatturando loro in euro e sostenendo i costi in franchi, è chiaro, sono sul versante sfavorevole. Vabbè, adesso con massimo rispetto, c'è di peggio nella vita, però insomma. Assolutamente sì, ma c'è anche chi ride, nel senso che pensiamo, adesso con tutto rispetto, sempre come tu dici, ai frontalieri italiani che sostanzialmente guadagnano in franchi svizzeri e spendono in euro, e oggi sono esattamente sull'altro versante, cioè hanno avuto un aumento implicito di potere reale d'acquisto molto forte, levando la soglia di cambio. Però fammi capire una cosa, adesso io capisco che quella fosse una misura per tenere il franco, per non rendere troppo forte il franco e quindi quota 1,2, ma perché il crollo del 12% su UBS, su Swatch? Cioè, adesso ragazzi, ma non è che questi grandi gruppi vivono solo grazie al franco, diciamo, debole. Dai. Come stanno? Allora, intanto diciamo che per 3 anni quelli che potevano avere effetti sfavorevoli non li hanno avuti, nel senso che il mercato era già arrivato a 1-1. Nell'agosto del 2011. Il 6 settembre del 2011 la Banca Nazionale ha poi fatto questo aggancio, per cui ha difeso strenuamente per 3 anni e più la soglia di 1,20. Quindi bisogna anche considerare i tre anni passati, nel bene o nel male, quindi, perché il mercato era già lì. Ma poi, a parte questo, bisogna vedere anche qui, senza fare di ogni erba un fascio, ci sono dei gruppi che probabilmente svizzeri che soffriranno per il loro export, ce ne sono degli altri che probabilmente soffriranno meno o non soffriranno. Se esportano beni ad alto valore aggiunto saranno comprati comunque, perché sono delle specialità talmente forti che il fattore valutario incide solo in minima parte. Ce ne sono altri che invece magari esportano beni a non altissimo, diciamo, valore aggiunto, e lì probabilmente soffriranno di più. Soffriranno parti del turismo svizzero, sì, perché i clienti stranieri anche dall'Italia diranno: beh, adesso a questo punto il cambio è troppo sfavorevole. Ci saranno settori del settore finanziario, ci saranno settori, scusate, della finanza svizzera che invece non soffriranno, perché il franco forte tornerà ad essere un elemento di attrazione, e così via. Quindi bisogna vedere bene la geografia, alcuni soffrono, alcuni no. Sì, siamo rimasti, devo dire, alla fine della tua analisi assolutamente corretta, molto sorpresa da questa reazione così forte, ma insomma, vedremo domani se si tranquillizzerà. Grazie anche a Lino Terlizzi, che è appunto la firma del Sole 24 Ore dalla Svizzera. Oh, sono molto contento per le due ragazze italiane liberate, quindi si chiude bene questa puntata di Focus Economia. Un augurio di buona serata da Sebastiano Barisoni, noi ci risentiamo domani, come sempre, dalle 17 in poi. Radio 24, la passione si sente.